Benvenuti. Questa è la puntata numero 1 di Soul Time. In realtà è la seconda, ma siccome la prima si è chiamata numero 0, ben arrivati, insomma. Questo è Soul Time. Allora, iniziamo subito con una bella selezione vinilica. Partirei con, come si è appunto detto nella puntata precedente, con uno dei tanti grandi classici della scena Northern Soul. Questa volta partiamo con Don Thomas, con un pezzo che si chiama Come On Train, uno di quei pezzi in cui si è consumato tanto tanto sudore sui parquet e sui pavimenti delle piste da ballo della scena Northern Soul. Ci ascoltiamo Don Thomas. Gotta go back home. Gotta find my baby. Hey, I've been gone too long. Gotta find my baby. Oh, train, come on. Hey, it's 2 o'clock in the morning, and I haven't made my way back home. I'm standing here in the train to come on, oh, come on, train, train, train, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, 7 months and 10 lonely days, I've been away from home, traveling from country to city to city, trying to find somewhere to belong, so come on. Come on, train, come on, train, yeah, train, come on, train, oh, yeah, train, train, moving, come on, train, down the track, train, got to get come on, train, my baby back, train, moving, come on, train, down the line, hey, train, long ago I left, train, I left behind, hey, train, hey, hey, come on, train. Di nuovo in studio. Allora, proseguiamo senza soluzione di continuità con la selezione vinilica. La puntina si è poggiata su un disco su cui c'è stampato il nome di Toby Legend. Toby Legend, nata Toni Clark, è conosciuta sia come Toby Legend che come Bessie Watson, è una cantante nata in Alabama negli Stati Uniti, che è ancora attiva, ha iniziato a incidere nei primi anni 60, precisamente nel 1960 risale la sua prima incisione, è nata nel 1941 e si è trasferita giovanissima subito in Canada, quindi può essere considerata a tutti gli effetti una cantante canadese soul e gospel, perché come tantissimi cantanti soul ha iniziato a cantare in chiesa con il gospel. Questo è probabilmente il suo pezzo più famoso, al di là del al di là del Northern Soul, di cui ovviamente fa pienamente parte del repertorio questo pezzo. Il suo pezzo più famoso, appunto, che si chiama Time Will Pass You By. Lei è Toby Legend. Partito il disco con un pezzo prima, va bene uguale, via. Ci ascoltiamo Toby Legend, a.k.a. Toby Lark. Passing seasons all but fade away into misty clouds of autumn gray. As I sit here looking at the street, little figures quickly moving feet. I'm just a pebble on the beach, and I sit and wonder why. Little people are running around, never knowing why. Oh no, life is just a precious minute, baby. Open up your eyes and see it, baby. Give yourself a better chance, because questa era Toby Legend. Ok, il tempo di spostare la puntina sul giradischi e continuiamo con un personaggio molto molto interessante. Lui è Sam Dees. Sam Dees è nato nel 1945 a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti. È tuttora un cantante soul, uno scrittore e un produttore discografico. Ha rilasciato tantissimi album durante gli anni 70, 80 e 90 come compositore. Ha scritto centinaia e centinaia di canzoni per tantissimi artisti. Basta citare, insomma, nomi anche molto famosi come Gladys Knight, George Benson, Aretha Franklin, Whitney Houston. Questo è un pezzo che è entrato nell'immaginario collettivo del Northern Soul e si chiama Lonely For You Baby. Lui è Sam Dees. Thank you. Questo era Sam Dees con Lonely For You Baby. Quindi proseguiamo con un'altra, con un altro gruppo che si chiamano gli MVPs, che avremo modo di ascoltare credo abbastanza spesso durante questa trasmissione. Questo pezzo si chiama Turning My Heartbeat Up di MVPs. Sound of the drummer thumping to the beat of my heart. Hear that bass, he can't keep the pace. It's tearing my brain apart. Whoa, I never ever felt like this before. But all I can say is, Mama, give me some more. Turning my heartbeat up. Ooh-wee. Turning my heartbeat up. It's getting harder. Turning my heartbeat up. Ooh. Turning my heartbeat up. I keep on telling you, you're turning my heartbeat up, baby. You're turning my heartbeat up. It's getting harder. Turning my heartbeat up. Ooh, ooh, ooh. Turning my heartbeat up. I keep on telling you, you're turning my heartbeat up. Questi erano gli MVPs, un pezzo che mi ha fatto sudare soltanto a muovere la testa, credo di aver bisogno delle salviettine rinfrescanti. Eccoci qua con il nostro saggio. E questa è la scaletta della rubrica L'America sta qua. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo in italiano di Charles Aznavour. Parlo malissimo il francese. Questo pezzo si chiama Quel che non si fa più. È sicuramente un pezzo che unisce tantissimo, tantissimo le melodie soul. Anzi, in questo caso, quello che è il ritmo di questo pezzo richiama direttamente il Northern Soul. Poi improvvisamente cambia, si spezza in due questo pezzo e subentra la classica melodia italiana anni 60, in cui appunto non si poteva fare a meno per poter pubblicare un disco. Però è da apprezzare il coraggio, soprattutto iniziale, di inserire delle sonorità completamente nuove per quello che riguardava l'Italia. Questo è Charles Aznavour, Quel che non si fa più. Qui nell'oscurità del chiasso familiare, del posto più alla moda in tutta la città, noi rimaniamo qui per ore ad ascoltare. Pop, you forget, qui con te come un pellegrinaggio. E ballo insieme a te, tra il sogno e la realtà. Vieni e riscopri con me quel che non si fa più. Stai guancia a guancia, sì, e cuore a cuore, sì, e stringi più che puoi le braccia intorno a me. Stai qui contro di me, stai qui contro di me. C'è tanta gente, lo so, ma chi la sente più? Facciamo conto che il mondo siamo noi, almeno fino a che la notte finirà. Stai qui contro di me, stai qui contro come noi, sembra una cosa nuova. Qui persi tra la folla delle coppie in trance, che sembrano ricordare riti primitivi, rimasti uguali da migliaia d'anni fa. C'è gente intorno a noi che sta ballando insieme. Si direbbe che ognuno fa per sé. No, musica e amore stanno bene insieme. Questa oscurità che dà ragione a me. Vieni e riscopri con me quel che non si fa più. Stai guancia a guancia, sì, e cuore a cuore, sì, e stringi più che puoi le braccia intorno a me. Stai qui contro di me, stai qui contro di me. C'è tanta gente, lo so, ma chi la sente più? Facciamo conto che il mondo siamo noi, almeno fino a che la notte finirà. Stai qui contro di me, stai qui contro di me. Vieni più vicino, lascia perdere gli altri. È bello star così, no? Guancia a guancia. Ti ricordi? Avevo l'impressione che ballare a questo modo fosse una cosa da vecchio. Dirò, forse non avevano mica torto. Le epoche cambiano, l'amore no. Stai qui contro di me, stai qui contro di me. Questo era Charles Aznavour. Allora, torniamo alla lingua inglese. Sicuramente questo pezzo era interessante perché poi riascoltandolo anche in occasione di questa trasmissione, oltre all'attacco, o meglio gli stacchi più prettamente soul, sicuramente la batteria, l'utilizzo della voce anche in chiave jazz, è stato un bel esperimento sicuramente. Allora, torniamo, come si diceva, alla lingua inglese, torniamo al Northern Soul più propriamente detto, con un pezzo di Rita and the Tiaras. Questo pezzo si chiama Gone with the Wind is My Love. Errata corrige, ho sbagliato a impilare il disco. Naturalmente questo non era Rita and the Tiaras, ma erano i grandissimi The Originals con Suspension. Quindi, siccome l'ho annunciato prima, invece degli Originals, adesso ci andiamo a sentire proprio Rita and the Tiaras con, ecco qua, si sente il rumore, con Gone with the Wind is My Love. Rita and the Tiaras. Yeah. Rieccoci. Allora, proseguiamo con la selezione vinilica. Il prossimo pezzo è un pezzo del 1966, pubblicato dalla Ace Records. Questo pezzo si chiama Baby Without You e ce lo canta Danny Monday. Somebody call me a doctor. Somebody call me a nurse. Do something for me. Don't make me suffer. Please don't let it get worse. At home, beware, baby, of the danger. Think of all the things that could go wrong. Baby, stop, look and listen. Honey, don't you blow your cool. It's a doggone shame to fool love around and lose everything. When you got it right here at home, and beware, baby, of the danger. Think of all the things that could go wrong. Honey, yield not to temptation. Don't you let them lead you on. You be just like them in a matter of Ok, allora la puntata sta volgendo al termine e direi di chiudere con la rubrichetta lanciata nella precedente puntata, la musica che mi ascolto nelle cuffie mentre vado al lavoro. Quindi chiudiamo la puntata con un grande, grandissimo cantante che si chiama O.C. Tolbert, cantante attivo, attivissimo nella scena di Detroit. Questo è stato pubblicato dall'etichetta Kent e si chiama You Got Me Turned Around, O.C. Tolbert. Ci sentiamo alla prossima puntata. You got me turned around. got me turned around.